devo partire, qualcuno ha deciso per me. Non è chiaro se tra noi qualcuno spera ancora nella guerra. Io cercherò di ucciderlo, non lo invidio, vorrei solo ucciderlo. Stare anche